La sposa perfetta di Angelica Gorodischer. Se la incontrate per strada, affrettatevi a cambiare lato e accelerate il passo. È una donna pericolosa. Ha tra i 45 e i 50 anni, una figlia sposata e un figlio che lavora a San Nicolas. Il marito fa il carrozziere. Si alza molto presto, spazza la strada, accomiata il marito, lava, fa il bucato, le compere, cucina. Dopo pranzo guarda la televisione, cuce o lavora a maglia. Stira due volte alla settimana e la sera va a letto tardi. Il sabato fa le pulizie generali. Lava i vetri e passa la cera sui pavimenti. La domenica mattina lava i vestiti che le porta il figlio, che si chiama Nestor Eduardo. Prepara la pasta per gli spaghetti o i ravioli e il pomeriggio viene a trovarla la cognata, oppure è lei che va a casa della figlia. Da tempo non va più al cinema, però legge la guida TV e i report della polizia sul giornale. Ha gli occhi scuri, le mani ruvide e comincia ad avere i capelli bianchi. Si raffredda spesso e conserva un album di fotografie dentro una scatola nel comò insieme a un vestito di crepe nero con il collo e le maniche di merletto. Sua madre non la picchiava mai, però a 6 anni un giorno le diede uno schiaffo per aver disegnato su una porta con gessetti colorati. E poi la costrinse a cancellare il disegno con uno strofinaccio bagnato. Mentre passava al panno, lei pensava alle porte, a tutte le porte, e decise che erano molto stupide, perché conducevano sempre agli stessi posti. E quella che stava pulendo era proprio la più stupida di tutte le porte, perché conduceva alla camera da letto dei genitori. Aprì la porta e non si ritrovò di fronte alla loro stanza, bensì il deserto dei Gobi. Non si sorprese, anche se non sapeva fosse il deserto dei Gobi, e a scuola non le avevano ancora insegnato dove si trovasse la Mongolia, e né lei, né sua madre, né sua nonna avevano mai sentito parlare di Nanshan, né tantomeno di Kangai Nuru. Varcò la soglia, si chinò, raschiò la sabbia giallognola e vide che non c'era niente e nessuno. Il vento caldo le scompigliò i capelli, quindi attraversò di nuovo la porta aperta, la chiuse e continuò a pulire. E quando ebbe terminato, la madre brontolò un altro po' e le disse di lavare lo strofinaccio, di prendere la scopa per spazzare per la sabbia e di pulirsi le scarpe. Quel giorno cambiò il suo giudizio avventato sulle porte, sebbene non del tutto, perlomeno finché non capì cosa stava succedendo. Ciò che era accaduto nel corso di tutta la sua vita era che talvolta le porte si comportavano in modo soddisfacente, nonostante in generale continuassero a essere stupide e ad aprirsi su corridoie, cucini, cucine, lavatoi, camere da letto e uffici, nel migliore dei casi. Però, 2 mesi dopo il deserto, per esempio, la porta che tutti i giorni dava sul bagno si aprì sul laboratorio di un signore barbuto che indossava un lungo camicione, scarpe appuntite e un cappello portato di sbieco. Il vecchio era di spalle e stava tirando qualcosa fuori da un altro mobile pieno di cassettini, dietro una macchina di legno molto grande e molto strana, con un volante e una vite gigante in mezzo a una corrente fredda e a un odore acre. Quando si voltò e la vide, cominciò a gridarle contro in una lingua incomprensibile. Lei tirò fuori la lingua, uscì dalla porta, la chiuse, la riaprì, entrò in bagno e si lavò le mani per andare a pranzo. Un'altra volta, molti anni dopo, durante la siesta, aprì la porta della sua stanza ed entrò in un campo di battaglia. Si bagnò le mani con il sangue dei feriti e dei morti. Strappò dal collo di un cadavere una croce, che per molto tempo portò allacciata sotto le camicette abbottonate o i vestiti senza scollatura, e che adesso è riposta in una scatola di latta sotto le camicie da notte, insieme a una spilla, un paio di anelli e un orologio da polso smontato che una volta appartenevano a sua suocera. E così, senza volerlo e per caso, visitò 3 monasteri, 7 biblioteche, le montagne più alte del mondo e chissà quanti altri teatri, cattedrali, foreste, celle frigorifere, angoli malfamati e università e bordelli, boschi e negozi, sottomarini e alberghi e trincee, isole e fabbriche, palazzi e baracche e torri e l'inferno. Ha perso il conto e nulla importa. Qualsiasi porta può condurre da qualsiasi parte, e questo vale quanto lo spessore dell'impasto per fare i ravioli, la morte di sua madre e le difficoltà della vita di cui sente parlare in televisione e sulla guida TV. Poco tempo fa ha accompagnato la figlia dal medico e, guardando la porta chiusa di un bagno nel corridoio della clinica, si è sorrisa sotto i baffi. Non era sicura, perché non si può essere mai sicuri, ma si è alzata ed è andata in bagno. Senza dubbio era un bagno, perlomeno c'era un uomo nudo adagiato in una vasca piena di acqua. Tutto era molto grande, con il soffitto alto, il pavimento di marmo e degli addobbi appesi alle finestre chiuse. L'uomo sembrava addormentato nella sua vasca bianca, corta e profonda. Ha visto un rasoio su un tavolo di ferro, che sfoggiava gambe decorate con foglie e fiori di ferro e che terminavano con zampe di leone. Un rasoio, uno specchio, una piastra per ricciare i capelli, alcuni asciugamani, una scatola di talco e una ciotola piena d'acqua. Si è avvicinata in punta di piedi, ha sollevato il rasoio, ha camminato in punta di piedi fino all'uomo addormentato nella vasca e lo ha sgozzato. Ha gettato il rasoio per terra e si è sciacquata le mani nell'acqua tiepida della vasca. Quando è uscita sul corridoio della clinica, si è girata ed è riuscita a vedere una ragazza che entrava nell'altra porta di quel bagno. La figlia la stava guardando. «Hai fatto presto!» «Il WC non funzionava», ha risposto. Pochi giorni dopo ha sgozzato un altro uomo in una tenda azzurra di notte. Quell'uomo e una donna dormivano appena avvolti nelle coperte su di un lettone basso. Il vento agitava la tenda e inclinava le fiamme delle lampade a olio. Più avanti c'era un altro accampamento, soldati, animali, sudore, sterco, ordini e armi. Ma dentro, insieme alle armature di cuoio e metallo, c'era la spada con cui ha tagliato la testa dell'uomo barbuto. La donna addormentata si è mossa e ha aperto gli occhi mentre lei stava riattraversando la porta per tornare al cortile dove aveva appena finito di passare il mocio. I lunedì e giovedì pomeriggio, quando stira i colletti delle camicie, pensa ai colli mozzati, al sangue e rimane in attesa. Se è estate, esce un attimo di strada dopo aver messo a posto i vestiti finché non arriva al marito. Se è inverno, si siede in cucina a rammendare. Ma non sempre incontra uomini addormentati o cadaveri con gli occhi sbarrati. Una mattina di pioggia, quando aveva 20 anni, finì in un carcere e prese in giro detenuti incatenati. Una notte, quando i bambini erano piccoli e vivevano tutti ancora a casa, vide in una piazza una donna spettinata che guardava una pistola, ma non osava tirarla fuori dalla borsetta aperta. Lei le andò incontro, le mise la pistola in mano e rimase lì finché un'auto non parcheggiò all'angolo, finché la donna non vide un uomo vestito di grigio che scendeva e cercava le chiavi di casa, finché la donna non prese la mira e sparò. Un'altra notte, mentre faceva i compiti di geografia in prima media, andò a cercare le matite colorate in camera sua e restò vicino a un uomo che piangeva su un balcone. Il balcone era talmente alto sopra la strada, che le venne voglia di spingerlo giù per sentirne il tonfo. Però poi si ricordò della mappa orografica dell'America del Sud e fu sul punto di tornare indietro. In ogni caso, siccome l'uomo non l'aveva vista, lo spinse. Lo vide scomparire e uscì correndo per andare a colare la mappa, così non sentì il tonfo, però l'urlo sì. Su un palcoscenico vuoto accese un falò sotto le tende di velluto. Durante una sommossa scoperchiò l'apertura di uno scantinato in una casa, seduta a una scrivania, distrusse un manoscritto di 2000 pagine. Nella radura di una foresta sotterrò le armi di uomini che dormivano e in un fiume alzò la chiusa di una diga. Sua figlia si chiama Laura Ines, suo figlio ha una fidanzata a San Nicolas, che ha promesso di portare la prossima domenica, così che lei e il marito possano conoscerla. Deve ricordarsi di chiedere alla cognata la ricetta per la torta con le arance, e venerdì daranno in televisione il primo episodio di una nuova telenovela. Passa di nuovo il ferro da stiro sul davanti della camicetta e si ricorda dell'altro lato delle porte, che sono sempre attentamente chiuse a casa sua. Quel lato, dove le cose che succedono, sono molto meno abominevoli di quelle che si vivono da questo lato, come potrete facilmente capire. Angelica Gorodischer è una scrittrice argentina conosciuta per racconti e romanzi caratterizzati da elementi di speculative fiction e una prospettiva femminista. Sebbene la maggior parte dei suoi lavori siano disponibili solo in lingua originale, Ursula K. Le Guin ha tradotto in inglese la sua collezione di racconti intitolata Kalpa Imperial, The Greatest Empire That Never Was, uscita nel 2003 per Small Beer Press. L'unico suo lavoro disponibile in italiano è la raccolta Come svoltare nella vita senza farsi ammazzare, edita da Socrates Edizioni nel 2008. Le sue opere hanno vinto molti premi, tra cui il Dignity Award, assegnatole dall'Assemblea Permanente per i Diritti Umani, un'associazione argentina che premia i lavori e le attività legate ai diritti per le donne. Nella Sposa Perfetta seguiamo una tipica casalinga che compie le sue faccende domestiche, ma conduce anche una vita segreta e alternativa, di grande libertà. Fu pubblicato per la prima volta in un'antologia che consigliamo caldamente, Secret Weavers, del 1991, da Le Visionarie, Nero Edition. Wombat.